A ciascuno il suo, di Raffaella Calandra. Questo è stato un colpo basso per quella che era la piccola Stalingrado d'Italia. Adesso abbiamo appurato che tutto il mondo è paese. Buongiorno dalla città delle fabbriche, come recita questo cartello qui all'ingresso di Sesto San Giovanni. Siamo nell'Interland settentrionale di Milano, la città con le mani operaie e il cuore a sinistra, che ora teme di diventare come il Pio Albergo Trivulzio, il luogo simbolo di una nuova Tangentopoli, questa volta rossa. E di questo quasi esclusivamente si parla qui, negli stradoni intitolati ai vecchi industriali, dove nelle bacheche vengono ancora affisse le pagine dell'Unità. Si parla del peccato originale che i magistrati di Monza contestano all'ex sindaco, già a capo della segreteria politica del PD, Filippo Penati, che sta scuotendo l'intero partito. Un peccato originale chiamato arricchimento personale e finanziamento illecito ai partiti, per dirla con le parole dei PM, insomma tangenti. E di questo parliamo in questa prima puntata di A ciascuno il suo. Un sistema Sesto, perché a Sesto ha raggiunto degli accenti particolari, ma è comunque il sistema area metropolitana milanese, il sistema Milano. Ci sono i trasporti, gli appalti per la ristrutturazione delle aree Falck e Marelli, ci sono i lavori per il palazzetto dello sport, c'è l'organizzazione dei comizi e c'è pure un sondaggio preelettorale nel calderone di quello che è diventato per tutti il sistema Sesto, da quando lui, Piero Di Caterina, titolare dell'azienda dei trasporti Caronte, l'ha messo a verbale e ha cominciato a raccontarlo ai magistrati di Monza, euro dopo euro. E allora, secondo i PM, che salta il banco quando lui inizia a svelare 15 anni di soldi infilati nelle buste o di quelli ricevuti dal Lussemburgo o ancora di milioni recuperati attraverso la caparra della mancata compravendita di un immobile. Un'operazione questa che sembra avere sullo sfondo l'acquisto a prezzi gonfiati, secondo l'accusa, di quote dell'autostrada Serravalle da parte della provincia di Milano. Un filone questo che si traduce in una nuova accusa per concorso in corruzione per Filippo Penati, che si agitò molto, secondo quanto riportano le intercettazioni, quando la Corte dei Conti avviò un'indagine, momenti che Di Caterina ricorda bene. Si alternavano momenti di nervosismo che si percepivano comunque in maniera molto ben celata a momenti di grande euforia. Io infatti mi chiedevo da cosa potesse essere motivata questa grande sicurezza che aveva. Argomento Serravalle era stato mai toccato in modo esplicito? Li abbiamo accennati, non eravamo più in una condizione di clima molto molto molto sereno, eravamo tesi per le questioni appunto degli equilibri economici che avevamo in ballo. In ballo c'erano più di 2 milioni di euro. Sì, delle istituzioni che sarebbero dovute venire a mio favore. Lei stesso aveva, diciamo, collegato la possibilità di poter avere o riavere questi soldi in base alla riuscita dell'operazione Serravalle? No, io trattavo con loro per l'istituzione di queste somme, poi ovviamente ho visto che arrivavano da un soggetto che rappresentava Serravalle, ma questo non era il mio problema, insomma. E lei non si era meravigliato di questo? Non ci si può meravigliare di queste cose. Quando in Italia si parla di pubbliche forniture, nella maggior parte dei casi c'è illegalità e crimine. Quindi lei l'aveva messo in conto? Io ho fatto un'operazione immobiliare che, se si fosse conclusa, sarebbe stata un'operazione precisa. Per me lo è precisa anche fino all'aspetto della caparra. È ovvio che è molto strano che una importante società fa un contratto per comprarsi un immobile e poi abbandoni, insomma. No? E lei che spiegazione si era dato? Hanno necessità di prove, questo ci penseranno i magistrati adesso. Snodo centrale Bruno Binasco del gruppo Gavio, la società da cui furono comprate le contestate quote dell'autostrada Serravalle. L'operazione che permise a Di Caterina di riavere i suoi soldi, a quanto racconta, e questo nonostante la Corte dei Conti. Girava a Milano negli ambienti della politica questo fatto, no? La mia preoccupazione di un eventuale ritorno nella condizione di rischio c'è sempre stata, perché stavamo discutendo da anni, voglio dire, non se ne veniva a capo. Dicevano di non avere quattrini per restituirmeli. Nel momento in cui dice sì, tot, restituisco i soldi, lei capisce che un politico fa insorgere in chi ha di fronte la domanda da dove arrivano, no? E questo era quello che gli aveva detto Penati? L'assicurò che li avrei avuti, ci è parlato prima dell'operazione, come lei ha visto dai verbali della Sera Valle, però si era parlato di tante altre cose prima che poi non si erano concretizzate. Cioè c'erano state delle altre ipotesi? Sa, quando un creditore va da un debitore e dice dammi i soldi, uno deve per tranquillizzarsi e dire aspetta che vedrai che sto facendo questa bella cosa e poi dopo. Però loro parlavano molto poco, io avevo l'obiettivo di definire le mie pendenze e poi avevo i miei grossi problemi nel campo dei trasporti, dove io ho chiesto sempre solo legalità, mi era stata promessa, invece sono state fatte cose sporche. A Milano, per quanto riguarda ATM, io sto denunciando da anni gravissime irregolarità di bilancio. Sono tutte situazioni che portano gli imprenditori a lavorare in maniera sbilanciata e anche poco legale. Lei di questo si era mai lamentato con Penati direttamente? Come no? Io ho cominciato a denunciare nel 2006, ma io nel 2008 arrivo a fare denunce alla pubblica autorità. Finanza, carabinieri, polizia, sindaci, nessuno ha fatto niente. Il sindaco di Sesto San Giovanni Oldrini, la sindachessa di Cinisello Gasparini, che con noi si stavano difendendo dagli abusi di ATM, erano creditori di 40 milioni di euro, ad un passo dall'incasso hanno fatto accordi con ATM e hanno rallentato la difesa e si sono schierati contro di noi pro ATM. Io ho cominciato a segnalare situazioni gravi fin dal 2006. Cioè lei dice io avevo fatto delle denunce anche all'autorità giudiziaria, dove? A Milano? Sì. Polizia di Segrate, Carabinieri di Segrate, Finanza di Segrate prima, poi Sesto San Giovanni, sindaci di Sesto, Cinisello, Segrate e Milano. Aveva espresso questa volontà di voler parlare con un magistrato? Ho denunciato alla pubblica autorità, è ovvio che uno che denuncia poi il magistrato lo chiama, io in procura arrivo per una questione di fatture che vengono giudicate non corrette sul piano fiscale, controlli incrociati sulla questione Santa Giulia. E a quel punto comincia a parlare. Avrei potuto scegliere o di dire le mie fatture sono tutte corrette e invece ho preferito cominciare a parlare. Se la Corte dei Conti stabilisce che il valore della corruzione in Italia è 70 miliardi, se c'è questa cifra enorme di fatti corruttivi, la maggior parte sono situazioni inquinate da corruzione. La tassa occulta pagata dagli italiani, così l'ha definita l'ex procuratore della Corte dei Conti, Furio Pasqualucci. È stata calcolata dall'allora esistente Authority contro la corruzione, questa istituzione poi è stata abrogata ed inserita nella funzione pubblica. Fino ai tempi di Mani Pulite c'era una forma di corruzione che si esprimeva per lo più attraverso tangenti, che peraltro non venivano utilizzate se non in piccola parte da parte di chi le percepiva direttamente, ma erano usate come strumenti per sovvenzionare i partiti o quantomeno le correnti partitiche. Dopo avevo avuto l'impressione che la corruzione fosse cambiata, specialmente perché non era più indirizzata a sovvenzionare i partiti, ma i benefici andavano direttamente a vantaggio delle persone corrotte. Quindi da una corruzione di tipo sistemico si passava a forme plurime di corruzione di tipo individuale. Devo dire che le ultime notizie che vengono da Sesto San Giovanni, eccetera, nel caso dovessero risultare fondate, fanno vedere invece che sussiste tuttora una forma di corruzione di quel primo tipo. Diciamo che, stando ovviamente alle accuse, sembra esserci tanto l'uno quanto l'altra, cioè tanto l'arricchimento personale quanto l'illecito finanziamento ai partiti, robe da Prima Repubblica. Sì, come le dicevo, questo ultimo fenomeno sembra più riportare al primo modello che non al secondo. Ho sempre denunciato con molta apprensione il fenomeno delle società pubbliche o semipubbliche che pullulano specialmente a livello comuni, province, può presentare molto facilmente degli aspetti che si prestano a queste forme di corruzione per quanto riguarda le assunzioni, per quanto riguarda l'assegnazione di prebende, consulenze eccetera. Una corruzione che negli anni cambia pelle come un serpente o che si camuffa come un camaleonte, ma che in sostanza, secondo quello che il sistema Sesto sembra svelare, porta gli imprenditori a pagare per restare nel mercato. Così almeno racconta uno che fino ad un certo punto ha fatto parte del meccanismo, Piero De Caterina. Io sono consapevole di dover lavorare in un meccanismo come questo. Io non ho mai chiesto e non ho mai fatto, la mia azienda qui possono venire a girarmela sotto sopra come un calzino, di avere benefici illeciti. Io ho chiesto l'applicazione della legalità, perché avevo un competitore che abusa della sua posizione dominante. Quando si parla di gente che è costretta a pagare ai politici che amministrano i danaro e che amministrano i procedimenti di assegnazione dei lavori pubblici, tanta gente per rimanere nel mercato e pagare. Secondo lei ci saranno altri imprenditori che seguiranno le vostre stesse orme e andranno a denunciare? È molto difficile. Io ho incontrato diversi imprenditori nei primissimi giorni, quando c'era un po' di euforia, e mi hanno raccontato di fatti di criminalità economica. Io gli ho suggerito di andare ai magistrati a denunciare. Immediatamente hanno detto che avrebbero avuto voglia di farlo, poi si raffreddano. Si paga un prezzo altissimo. Quando è successo questo fatto, su Panorama di 2 o 3 giorni dopo, il patron di Esselunga, Caprotti, dice: queste sono cose vergognose, a Sesto è tutto ok. Alcuni giorni dopo ha interrotto contratti che noi avevamo dal 2003 con il gruppo Esselunga. Certo, noi potremmo fare causa adesso, no? Però hai perso un cliente. Lei pensa che questa sua esposizione in questo momento, le sue denunce, avranno delle altre ricadute per il suo lavoro? Stiamo subendo un'emarginazione gravissima. Abbiamo signori sindaci che dovrebbero rimboccarsi le maniche per ripristinare situazioni di legalità, invece si chiudono a riccio, tu li chiami, non rispondono. Sono situazioni che rappresentano la cifra del costo pesante che si deve pagare. Ci sono altri imprenditori che hanno pagato, dunque, altri imprenditori che potrebbero denunciare, secondo una delle gole profonde dell'inchiesta sul sistema Sesto, che, lasciata la città delle fabbriche e attraversata Piazzale Loreto e i suoi fantasmi, ha coinvolto nelle polemiche anche un assessore della nuova giunta di Milano. Ho mandato una lettera a Pisapia, racconterà tra poco Piero Di Caterina. A ciascuno il suo. Io sono contento che si faccia luce su questo, perché noi ci diamo corpo e anima. Se qualcuno ha combinato qualcosa, io sono sincero, deve pagare. La sospensione è troppo o è poco? Non saprei, però io dico che qualcuno deve prendere provvedimenti. Tra gli stand della festa nazionale del PD, gli sviluppi dell'inchiesta sull'ex capo della segreteria politica arrivano tra Local Forno e lo gnocco fritto, ma non per questo lasciano minor sbigottimento. Il partito ha sospeso Filippo Penati, che aveva già fatto un passo indietro, ma si ritrova comunque ora a fare i conti con una nuova questione morale e con un'ombra di tangenti che avvolge uno dei suoi vertici di primo piano. A far da mediatore tra le mazzette, uno degli imprenditori che ha poi denunciato, Piero Di Caterina, titolare della società Trasporti Caronte. Signor Di Caterina, per quanto riguarda i suoi rapporti con Pasini, negli atti dell'inchiesta lei risulta come colui che fa un po' da tramite per quanto riguarda le presunte tangenti tra Pasini e Penati. Come andava? La prima tranche di finanziamenti che ho fatto a Penati l'ho recuperata attraverso Pasini in Lussemburgo. Cioè le è stata data comunicazione di andare in Lussemburgo? Sì, sì. Io finanzio Penati fin da quando si è insediato a sindaco la prima volta. Mi sono reso disponibile a dargli dei soldi, ma che dovevano tornare indietro. E tornavano indietro attraverso Pasini? Sono tornati indietro per una tranche attraverso Pasini, poi adesso si sono dati da fare, a fare un po' i procacciatori d'affari immobiliari, diciamo. Come gli diedero le istruzioni su come andare a recuperare questi soldi? Chi gliele diede, Pasini? Sì, ci parlammo a tre e poi andai in Lussemburgo. Contanti sono mai girati? I soldi che ho dato a Penati li ho dati in contanti, certo. Con buste, come? Da quando è mondo, se uno del contante lo deve consigliare a una persona, lo mette in una busta. E c'era un codice comunicativo? Io pensavo si potesse prestare quattrini a una persona che fa il politico e che gli servono per gestire la sua macchina politica. Era questo che le diceva Penati? Per la politica, no? Io sono convinto che li abbiano operati per quello. Lei si è fatto il conto? Siamo a 3 milioni e mezzo di euro complessivamente che negli anni sono andati avanti e indietro. Ecco, diciamo. Penati le diceva che era per la politica in generale o le faceva capire anche volta per volta per i singoli passaggi politici? Stiamo parlando di un'epoca che va dal 94-95 al 2002. In quell'epoca lì tutti i partiti italiani sono trovati a scarsa disponibilità di ossigeno, c'era stata Tangentopoli. Io non credo che sono stato l'unico caso che si è occupato di queste questioni, voglio dire, per me ci sono state altre situazioni simili nel nostro paese. Anche rispetto alle stesse persone, anche altri imprenditori? Non sono la novità, è che io la faccio venire fuori questa storia e che io sono stato fregato dalla politica che, a cui mi ero reso disponibile, io come Pasini. Però Pasini era stato anche lo sfidante elettorale a Sesto San Giovanni e appunto a lui ancora di più che a lei si dice, beh, però questa vicenda qui poteva tirarla fuori all'epoca. Per un imprenditore è una azione estremamente difficile. Io ho corso il rischio che queste storie, di non avere la possibilità di raccontarle a nessuno, capisce? Si vede anche da come stava andando la questione Serravalle, insomma. In che senso da come stava andando la vicenda Serravalle? Era 5 anni che se ne parlava a Milano, Albertini ha fatto 4 denunce, se non ne viene fuori a capo di nulla vuol dire che è complicato, no? E lei che spiegazioni se ne è dato? Lei che spiegazioni se ne è data? Non so. Neanche io lo so. Dice di Caterina che quella che lui racconta è la prassi, un sistema appunto. Ma perché, obietta il sindaco di Sesto, Giorgio Oldrini, indagato a sua volta, tutto questo non è stato tirato fuori quando l'altro grande accusatore, Pasini, era candidato al soglio dell'ex Stalingrado rossa? Mi si accuserebbe di aver spinto a pagare delle rate per la trasformazione del Palazzo dello Sport in palaiaccio, decisione che è stata presa nel 1999. Quando io facevo il giornalista di Panorama e non avevo nessuna idea che dopo 3 anni sarei diventato sindaco di Sesto, il signor Pasini aveva preso un mutuo, fatto i lavori, sottoscritto una fideiussione per pagare le rate che doveva pagare a un figlio che è nel consiglio di amministrazione della società e quindi credo che più di così... Il palaghiaccio, un sondaggio elettorale, ma anche e soprattutto i soldi per la macchina politica. Questo, per Piero di Caterina, era il sistema Sesto, un tutt'uno a suo dire, con il contenzioso che ha con la società dei trasporti milanesi. Per questo, quando è stato eletto il nuovo sindaco, lui ha preso carta e penna. Ero preoccupatissimo perché quando uno va a raccontare di situazioni anche sentite, comprese con mezze parole, con occhiate, con ammiccamenti, corre poi dei rischi. Se queste questioni che ho raccontato io non avessero trovato il riscontro, poi in alcuni fatti probanti importanti, sarei venuto fuori con le ossa maciullate io. Poi altri sono venuti da me dicendomi che forse era meglio non dire niente, che tutto sarebbe aggiustato. Altri che? Altri imprenditori interessati a questa vicenda. Altri imprenditori coinvolti? Suppi, Marelli, Pasini, Fondrini, questa gente qui. Da una parte c'ero io determinato a denunciare tutto di più. Loro all'inizio avevano molta preoccupazione, molte paure, no? Cioè è stato lei a convincere anche Pasini a parlare? Lui non mi ha convinto di sicuro. Io comunque ho fatto opera di grande convincimento. Tutto questo era ben prima che Penati arrivasse ad avere dei ruoli così importanti nella segreteria del PD. Lui le faceva capire a che cosa all'interno del partito servissero questi soldi? Lui faceva riferimento ai costi per la macchina della politica, per quanto mi riguarda erano quelli della città di Sesto, ma erano esagerati secondo me, ma è una mia sensazione, voglio dire, no? Io li ho sempre identificati come costi anche del provinciale milanese, ecco, diciamo. Le campagne elettorali, gli eventi, come dicevo prima, le associazioni sportive, la segreteria di un partito di un comune. Quindi non soldi che dovessero però arrivare a Roma. Ma non mi sembrano cifre così importanti da andare a Roma, le mie. L'altra vicenda di Pasini è un'altra storia, voglio dire, no? E lei che idea si è fatta della storia di Pasini? Non mi sono mai posto il problema. Abbiamo già parlato di ATM e dintorni. Questo ha lambito l'attuale assessore Maranna. Sì, l'ingegner Rugari era il presidente del Consorzio Trasporti Pubblici di Sesto San Giovanni, altro compagno di sventura. Rugari, quando abbiamo visto che Maran è stato nominato assessore e Maran era un assessore penatiano, autonomamente ha parlato con Penati perché comunque voleva tentare di aprirsi un varco nell'amministrazione comunale di Milano per far emergere le situazioni di illegalità e cominciare a tentare di riequilibrare le questioni del SITAM, mie, ma soprattutto quelle del comune di Sesto e di Cinisello. Lui ha fatto sto messaggio a Penati, di cui io non sapevo niente. Io avrei fatto una bella lettera ufficiale all'assessore Maran, come ho fatto io, e al sindaco Pisapia, come ho fatto io. Lui si stava cercando, poi ho scoperto dopo, un posto di lavoro. Lei ha scritto una lettera a Pisapia, cosa gli ha scritto? Egregio signor sindaco, c'è un contenzioso con ATM, la quale abusa della propria posizione dominante. Prima l'ho mandata all'assessore, certo, poi siccome l'assessore dei trasporti non rispondeva, io ho fatto altre lettere al signor sindaco, che che devo dirle è la prima volta che un sindaco di Milano comprende e si attiva, e mi auguro per poi prendere le conseguenti determinazioni. Le ha risposto Pisapia? No, Pisapia non mi ha ancora risposto. Lui ha detto adesso voglio vederci chiaro e ha istituito queste due commissioni d'inchiesta. Ma invece quell'SMS in realtà era funzionale a far emergere le presunte illecità? Certo, certamente. Un SMS che dice bisogna parlare delle questioni di Piero, la questione di Piero e il SITAM, no? Prima che si degeneri, poi ne ho parlato con l'ingegner Ruggeri, noi abbiamo gravi difficoltà finanziarie, se non ci vengono dati i nostri quattrini è chiaro che noi possiamo finire in una condizione di degenerazione, capisci? Quando è stato eletto il sindaco Pisapia, io ci è mancato poco che portassi dei ceri alla Madonna in Piazza Duomo, voglio dire, perché è stata una cosa importantissima per noi. Certo che io lo sento politicamente vicino, lei sa che ATM mi ha buttato fuori il consigliere d'amministrazione di ATM Tofoni, persona vicino al ministro La Russa, ha interrotto un contratto prematuramente dicendo che lui i comunisti non li vuole. Questo è il clima che abbiamo vissuto, clima peggiore della mafia. Le inchieste e i processi daranno poi a ciascuno il suo. Noi cercheremo di raccontarvelo, entrando tra il chiaro e l'oscuro dei misfatti, ben sapendo però, come ci ha insegnato Leonardo Sciascia, che non sempre tutto è come appare, e ce lo ricorda uno studioso dello scrittore siciliano Marco Belpoliti. A ciascuno il suo, cioè ciascuno si merita quello che ha. È una di quelle frasi ambigue. Diciamo, Sciascia è uno scrittore che sta sempre su una soglia, come dice anche il più famoso romanzo di Sciascia, Il giorno della civetta. La piena luce del giorno è accecante. La verità accecante quindi fa vedere il buio. Insomma, c'è questa dialettica continuamente tra bianco e nero. Uno degli ultimi libri di Sciascia si chiama A futura memoria e ha come sottotitolo Se la memoria ha un futuro. Ecco, noi ci troviamo in un passaggio molto difficile e delicato della nostra storia, in cui bisognerà mettere a fuoco anche delle memorie contraddittorie, ambivalenti e ambigue. E vi anticipo già che torneremo ad occuparci di corruzione, sprechi ed evasione anche nella prossima puntata di A Ciascuno il Suo. Nel frattempo vi ricordo che questa rubrica, come già per Storiacce, è scaricabile dal sito radio24.it nella sezione podcast oppure direttamente su iTunes. E ci trovate ancora, come sempre, anche sulla pagina Facebook di Storiacce e sul blog Storiacce. Ciao a tutti da Raffaella Calandra. A sabato!